la versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, 16:31 primi e 40 secondi, qui da gli studi di Milano di Radio 24. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazio per l'ascolto in diretta in podcast della versione di Oscar. Vi ricordo l'indirizzo versione di Oscar @radio24.it. E continuate a scrivere, abbastanza numerosi anche in questi giorni in cui si approssimano le feste. Grazie. E vi dico subito di cosa parliamo oggi e con ogni probabilità anche domani, perché la vicenda del Monte dei Paschi è arrivata a ore decisive. Quindi parliamo di questo. Qualunque sia la vostra opinione, condizione, richiesta, domanda, 800 24 00 24, ovviamente 349 238 6666, per intervenire con i messaggi SMS. Perché sono ore decisive? Perché al di là di alcune altre vicende che pure incombono sui colli fatali di Roma, come si diceva un tempo, cioè la vicenda all'Italia, pare che stamattina all'alba sia stato raggiunto un accordo con Unicredit e Intesa per la riapertura di linee di credito. Vedremo però, ci dovrebbe essere un incontro in corso con i sindacati, in che cosa consiste il piano. Ci sono notizie anche di Hogan che molla Etihad, quindi insomma vedremo, non ne sappiamo ancora abbastanza. E al di là dell'incontro in corso in Consob per la vicenda Medias Vivendi e il Monte Paschi e l'intera partita bancaria, dopo il Monte Paschi porta i suoi nodi al pettine, perché fino a mezz'ora fa il governo smentiva ancora la convocazione del Consiglio dei Ministri per il decreto per l'intervento oramai necessario pubblico nella Banca Senese dopo il fallimento dell'aumento di capitale sul mercato con soggetti solo di mercato, modalità di mercato, per stasera, ma se non è stasera sarà domani, e quindi bisognerà capire che cosa davvero c'è scritto in quel decreto. Allora, io me ne occupo oggi pomeriggio e domani pomeriggio, perché mi sembra una questione molto molto importante. Vi dico subito in sintesi, prima di presentarvi l'ospite, e vi dico solo che è una specie di anticipazione dei conti della belva che facciamo, la stessa squadra sia oggi che domani, che distinguete e distinguiamo 5 punti almeno, perché la partita è lunga negli anni e complessa. La prima questione è come e perché, e questo riguarda la storia, oramai è una storia che ricostruiranno i magistrati più che altro, dal 2008 in poi l'acquisizione di Antonveneta, il funding della banca, non solo a Siena, questo riguardava l'intero sistema bancario, attraverso risparmiatori, retails a cui si piazzavano titoli che poi si sarebbero rivelati rischiosi con la BRRD, e si è continuato a farlo anche quando già si sapeva dal 2013-2014 in poi che arrivava la BRRD, cioè la direttiva europea sul recovery e risoluzione bancaria, a fare la stessa cosa, cioè perché in definitiva i 40.000 investitori retailers con subordinati in mano, più o meno si calcola che siano questi per un importo di 2 miliardi oggi esistenti, come titolari di obbligazioni subordinate MPS, il più sono concentrati praticamente su un titolo che fu emesso allora proprio per la copertura del finanziamento del prezzo di acquisizione di Antonveneta. E quindi questo riguarda la responsabilità pregresse, la fondazione, il PD, eccetera, eccetera. Secondo punto, come e perché dal 2012, quando esplode il problema, fino al 2014, quando in sede europea, dopo i primi 3 anni post 2011, i paesi dell'Unione Europea e dell'Euroarea, ricordatevelo, intervenivano sulla risoluzione delle banche, ciascuno con un criterio diverso, gli stati avevano più mano libera e ciascuno ha seguito una strada più o meno diversa. Ebbene, in quegli anni, di fronte al caso MPS, oramai diventato sempre più serio, i governi, a cominciare dai governi della destra, quello Tremonti, decidono invece di intervenire nella banca, azzerarla negli azionisti, ripulirla e poi ripiazzarla al mercato, come hanno fatto in Gran Bretagna e altri, di impiccarne una redditività sempre più esigua e affannosa alla remunerazione altissima, prima un po' meno del 9%, poi un po' più del 9%, dei famosi Tremonti Bond e poi Monti Bond, che sono il motivo per il quale poi una parte di loro, non restituiti ma convertiti, vedono oggi il tesoro con un po' più del 4% nell'azionariato di Siena. Altra seconda questione, perché da allora si inizia a prendere tempo, a dare i calci alla latina, per così dire. Terza questione, come, perché, chi, i regolatori e la politica, da quando si decide in sede europea nuove regole che scattano all'inizio dell'anno, fanno tutti finta di non saperlo. E quindi questo riguarda 2014 e 2015. Nel frattempo, in questa terza fase, cambia la vigilanza. Nel 2014 arriva l'Europa, si finisce di essere collusivi con i criteri, diciamo così, un po' opachi nella progressione da incagli a sofferenze. Si scopre che il sistema bancario italiano ha bisogno di aumenti massicci di capitale, che grazie all'intervento della regolazione e della vigilanza BCE iniziano a essere ad avvenire in serie nel nostro sistema. Ma anche in quella terza fase la decisione di Conte a dire che il sistema è solido, che MPS ce la farà, eccetera eccetera. Quarta fase, 7 mesi fa, quando arriva il risultato degli stress test, invece di intervenire con le norme della BRD, come era chiaro fin da allora, non per la risoluzione della banca, che era tornata a produrre reddito e continua ancora oggi a produrre reddito operativo, ma però di farlo nella fase della recovery, quindi non col bail-in, ma con il principio per il quale si chiama burden sharing. Comunque è possibile un aumento di capitale precauzionale, in cui è possibile anche la presenza pubblica. Il governo, allora i regolatori, 7 mesi fa era già chiarissimo, decidono di no e seguono, imboccano la strada di un aumento di mercato e fanno raccontare ai giornali italiani che c'è il fior fiore di fondi stranieri, il Qatar, non è il Qatar, i fondi americani, eccetera, eccetera, eccetera, pronti a fare la parte di aumento di capitale come pilastro, il famoso anchor investor. Nei mesi questa roba diventa sempre più priva di ogni, perdonatemi, credibilità, non c'è la fila per entrare in questo ruolo. Alla fine si arriva a cambiare i vertici della banca, si arriva a un piano che più o meno è sempre lo stesso in 7 mesi, ed è il piano che, di cui in queste ore si celebra il mancato successo, cioè si è chiesto agli obbligazionisti, agli investitori istituzionali e agli obbligazionisti anche non istituzionali, ma una parte di loro, perché c'era una norma Consob che impediva a farlo con il peggioramento delle condizioni per la parte dei retailers, si raccolgono solo 2.4 miliardi complessivamente di capitale dalla conversione, quindi lontano dai 5 miliardi, manca completamente la parte di grandi fondi di mercato, conciata quello del Qatar, di cui molti parlavano fino a ieri sera. Ed ecco che arriviamo alla quinta fase, cioè quella con l'autorizzazione parlamentare fino a 20 miliardi al governo di aumento del debito pubblico, non di deficit, per ripatrimonializzare e partecipare ad aumenti di capitale del sistema bancario italiano, ripeto, secondo le regole della BRRD. Siamo all'articolo 34, siamo al comma D, subcomma III, che pretende e prevede il burden sharing. Ma, fine della lunga introduzione, quello che si continua a scrivere sui giornali italiani, che proviene dagli ambienti del governo e dei regolatori italiani, è che pur tuttavia adesso si tenterà di aggirare il burden sharing, cioè di vedere, primo, bisogna vedere se nel decreto cosa si propone di fare il governo, compra titoli ma a che valore nominale, perché deve essere diverso rispetto a quello che era proposto nella proposta di conversione dell'aumento di mercato da parte della banca, compra i titoli a che livello rispetto al nominale, le obbligazioni da parte degli obbligazionisti, oppure c'è una conversione di quei titoli, le obbligazioni senior stiamo parlando, perché ripeto la fase di recovery è diversa dal bail-in, quindi si ferma a quelle, ma come funziona la conversione, oppure compra lo Stato, e se c'è la conversione che meccanismo si utilizza per il ristoro, quello delle quattro banche a cui la politica naturalmente chiede incessantemente di rifarsi, perché sapete che non vogliamo creare nuove ondate di panico tra gli obbligazionisti bancari, e allora bisogna vedere qual è il criterio, quello delle quattro banche. Vi ricordo che nelle quattro banche abbiamo adottato un criterio di ristoro duplice, cioè una parte fissata per reddito e patrimonio, fissa per investitori non istituzionali che stavano in quella categoria, oppure una parte per arbitrato a costo di dimostrare, però, se si dimostra di essere stati raggirati. Ecco, mi fermo a questa introduzione. Aggiungo solo che è inutile illudersi, perché dopo la questione MPS si pone il problema della domanda se lo Stato dovrà fare lo stesso per la ripatrimonializzazione, gli aumenti di capitale attesi per le due banche venete. Ieri Atlante ha dato disponibilità per quasi 1 miliardo di aumento di disponibilità patrimoniale per quelle due banche. Se lo stesso avviene per l'aumento di capitale che tutti si aspettano per la Banca Popolare di Milano e per il Banco Popolare che hanno deliberato la fusione, ma forse non si sa tutto quello che c'è da sapere sui crediti deteriorati del Banco Popolare. Se lo stesso avviene per le quattro banche risolte a novembre, in cui nel frattempo i crediti deteriorati sono sempre più aumentati e la cui asta per i venditori è andata deserta, e UBI, a cui ne dovrebbe andare tre delle Good Bank, non muore proprio dalla voglia perché c'è bisogno di capitale aggiuntivo, e per quante piccole altre banche che potrebbero avere bisogno di interventi simili. Come vedete, una foto non proprio tale da poter aver consentito operandi legittimamente di spiegarvi che era un sistema bancario solido, perché questo non lo è, e aver perso tutti questi anni dicendo il contrario ha un costo maggiore per il sistema di quanto sarebbe stato quello di interventi nei tempi giusti ad hoc per ciascuno di loro. Questa è la mia opinione, ma d'ora in poi io mi taccio, perché faccio le domande su tutti 5 i punti per ascoltare Mario Seminerio, che è con noi. Mario Seminerio, non ve lo devo dire, ma ve lo ripeto, andate a vedere tutti i giorni quello che scrive sul suo fastidio.net, sul suo blog. È un ex portfolio manager, ha lavorato per banche italiane, adesso fa un altro mestiere, comunque si occupa di allocazione di capitale e patrimonio sul mercato, quindi opera sul mercato tutti i giorni, oltre ad avere una solidissima preparazione economistica, ho sconiato un aggettivo improprio. Ciao Mario, grazie di essere con noi. Ciao Oscar, buonasera agli ascoltatori. Cominciamo dal fondo. Tu cosa ti aspetti che avvenga per le modalità dell'intervento, fatto stato di quello che sappiamo, cioè del fallimento, dell'aumento di mercato? Ma direi che siamo proprio al lancio delle monetine, però mi ha molto colpito di leggere stamattina proprio sul Sole dove si citavano delle fonti ben informate che dicono che la procedura non sarà una procedura tale da svilupparsi nell'arco di un weekend, come noi tutti o quasi ci aspettavamo, ma una procedura che potrebbe richiedere alcune settimane, niente meno, cioè scavallare. Se non mesi. Sì, esatto, 2 o 3 mesi, sì, apparentemente come tabella di marcia. Quindi scavalcare l'ultimatum, la deadline della BCE del 31 dicembre, ovviamente con l'autorizzazione europea, partire subito con le garanzie sulla liquidità per mettere in sicurezza ovviamente i flussi di liquidità della banca, addirittura riscrivere il piano industriale. Mi chiedo che cosa ci sia da riscrivere rispetto al piano di Morelli che riscriveva quello di Viola, ma evidentemente ormai siamo alla letteratura, passiamo il tempo a scrivere piani industriali, e dopodiché concordare con la direzione concorrenza, diciamo, della Commissione, della UE, come fare il burden sharing. Per cui qual è il rischio che è stato evidenziato da alcuni analisti già questa mattina, se questa ipotesi dei 2 o 3 mesi dovesse valere? Il rischio è quello che si incista l'incertezza e il deflussi di liquidità dalla banca accelerano anziché ridursi, anche se praticamente, diciamo, c'è la garanzia pubblica per quanto riguarda la fornitura di liquidità. Per quanto riguarda la conversione dei bond subordinati in azioni, io ti confesso che non aspettavo di vedere 2,5 miliardi. Anch'io. Cioè nei 2 round 2,5 miliardi non è male, no. Tutto sommato. No. Cioè, mi pare veramente qualcosa di notevole, quindi onore al merito di quelli che hanno aderito, e lo dico senza ironia alcuna. No, fatti. Sai, a questo punto io continuo a ritenere che si potrebbe fare una cosa. Aspetta, di questo su, questo sì. Ricordiamo a chi lo ha fatto, loro forse lo sapranno già, immagino, però per gli ascoltatori. Non credete che a questo punto, essendo fallito l'aumento di mercato, la conversione che avevano scelto i titolari di quelle obbligazioni per quasi 2,5 miliardi costituisca un livello di capitale da cui partire per completarlo? Perché nell'offerta era esplicitamente previsto che lo swap, lo scambio, cioè l'accettazione del rischio, ma con la conversione delle obbligazioni in azioni, valeva solo a patto che riuscisse ciò che si scriveva nel prospetto. Quindi quelli rientrano nella categoria di obbligazionisti, corretto? Me lo confermi anche tu, Mario, vero? Sì, sì, assolutamente. Però io direi un'altra cosa. Visto che abbiamo 2,5 miliardi, facciamo una piccola contorsione normativa regolamentare, teniamoli buoni. Ecco. No? E abbiamo già la metà dell'importo, esatto, di ricapitalizzazione, che poi, esatto, è quello che dico da alcuni mesi. Poi magari mi sbaglio, ma poi bisognerà vedere, perché questo è già un burden sharing. Perché ricordo che Mario Seminerio scrisse appunto 7 mesi fa, quando secondo me bisognava intervenire, era già rispettosissimo dell'idea di burden sharing indicata nella e prescritta, regolata nella direttiva europea. L'idea che si potesse fare un intervento pubblico di ricapitalizzazione non superiore, il cui diritto discende già dal fatto di essere nel capitale, ma non superiore alla metà dell'altra metà da realizzare col criterio invece del burden sharing, corretto? No, era questo che avevi detto. Sì, a meno che, sai, per burden sharing serva qualcosa di aggiuntivo, allora in quel caso probabilmente il Tesoro lancia un'OPA sui bond subordinati, si resetta tutto, quell'OPA avviene a prezzi superiori alle attuali quotazioni di mercato, ma non al nominale. Però in quel caso lì si dice: guardate che se non fallisce questo, la banca va in risoluzione, esatto, e i vostri subordinati vengono azzerati, modalità Etruria and Company. Comunque il governo decise allora, insieme ai regolatori, che non bisognava fare quello, che bisognava aspettare tempo, secondo me il referendum. Però questa è la mia opinione personale, io credo che sia stato un errore, però questa è la mia idea. È stato un errore assoluto, probabilmente bisognava gestire prima, ma è noto che il governo Renzi era terrorizzato dall'idea che potesse esserci il burden sharing o una forma di bail-in, invece adesso avverrà. Esatto. Per cui, cioè, alla fine, e poi ne aggiungo un'altra, visto che io sono sempre malevolo, questo famoso fondo del Qatar, cioè è mai veramente ma esistito? Ma dai, sono d'accordo, ma quando scusate, poi, ma siccome si viene a dire ma se non ci fosse stato il no al referendum adesso ci sarebbe stato, benissimo, però scusatemi, l'offerta per gli anchor investor riguardava tutti gli investitori del pianeta, ma infatti noi potevamo anche mettere assieme 7 oppure 8 investitori con 200 milioni di equity ciascuno e avevamo chiuso il cerchio senza fare un aumento di capitale per gli azionisti con diritto di opzione. Mario, sono d'accordo con te. Se non è avvenuto, un cavolo di motivo ci sarà, esatto, o no? Esattamente. Insomma, questo però, questo alla mia opinione, non ti voglio coinvolgere in mie opinioni un po' così, la dice più su tante autorevoli testate che hanno ripetuto questa storia fino a ieri e che forse invece dovevano legittimamente opinare con molti dubbi, già con larghissimo anticipo sull'esistenza di questo. E la reale disponibilità, però questo riguarda me perché vorrei un giornalismo di tipo diverso, sono un povero illuso. Un minuto di informazione stradale, poi torniamo con Mario Seminerio, le vostre telefonate, stiamo parlando di MPS e cosa aspettarsi dal decreto del governo che oramai sarà necessario. La versione di Oscar. Allora, eccoci qui tornati a parlare di MPS, dell'intervento che a questo punto è necessario, e sentiamo rapidamente alcune dei vostri interventi, con delle domande, così poi sentiamo anche con Mario Seminerio qual è la sua opinione sui vostri quesiti. Cominciamo con Vittorio che ci chiama dalla provincia Monza Brianza, leggo. Allora, Vittorio. Sì, sarò brevissimo, Giannino. E dunque, io ho acquistato allo sportello l'emissione e le bond sub della Monte dei Paschi a 100. E dopo lungo meditare avevo deciso di venderlo, cioè che di venderlo sul mercato secondario, esatto, la soluzione minore dei mali visto le cedole emesse, solo che non sono riuscito a farlo perché allo sportello con cui ero costantemente in contatto continuavano a dirmi che non c'era il mercato chiuso perché non c'erano acquirenti. Nel frattempo il titolo è sceso da 52 di venerdì a 45 di ieri e ce l'ho ancora in tasca. Si era risolto un po' tardino o sbaglio, però questa è, però quindi la sua domanda è adesso cosa mi capita. Sentiamo Giancarlo da Bologna. Giancarlo, Sì, buonasera, sono anch'io un fortunato obbligazionista subordinato. Colgo un secondo per un complimento che so che sono forse odiosi, ma il dottor Seminerio, quando l'ascolto, lo trovo di una chiarezza straordinaria e lo apprezzo molto. Quindi mi vergogno un attimo a dire che su una cosa, un dettaglio, non sono proprio d'accordo. Io ho seguito molto la cosa e sul Sole 24 Ore e altri giornali prima del referendum si è ripetutamente insistito sulla presenza del fondo sovrano del Qatar e della dichiarazione dei medesimi che se dopo il referendum ci fosse stata una situazione di non stabilità avrebbero ritirato l'offerta. Quindi, ma lei l'ha vista con virgolette del fondo o l'ha vista riportata e scritta? No, non c'erano le virgolette del fondo, ecco. Ho pensato anch'io questo, però era il Sole 24 Ore. Per carità, no, mi inchino, però come avrà capito noi abbiamo una qualche critica su questo, però per carità. E quindi la sua domanda? Il discorso che avete detto di coraggio dei cosiddetti obbligazionisti subordinati, la mia domanda diventa, ma era logico, credo, quale alternativa c'era? Tanto c'era comunque il ritorno a obbligazione nel caso che fallisse e a quel punto c'era soltanto la possibilità di dire facciamo pacchetto, siamo 40.000, mediamente con 50.000 euro l'uno, che non sono proprio nulla, infatti erano 2 miliardi e mezzo e quindi... puntiamo sulla banca. Giancarlo, lei avrà letto che sui forum finanziari c'era un filone di pensiero che diceva se è rientrata nella condizione del ristoro deliberato per le quattro banche, fatevi il conto e magari non vi conviene convertire. Questo molti siti lo hanno scritto. Ma sentiamo Mario Seminerio come risponde ai nostri due ascoltatori. Ma che posso rispondere? Sì, si può anche ritenere così un'azione collettiva e quant'altro, però io posso dire che c'è una cosa che mi preoccupa molto e sto cercando di unire i puntini. Questa idea di fonti bene informate che il processo richiede molto tempo fa letteralmente a cazzotti con la vulgata che da un paio di settimane dice il decreto è già scritto e nel cassetto verrà estratto in tempo reale a bisogno e alla necessità. Siamo sicuri? Cioè, perché è questo che mi inquieta non poco. Cioè, siamo sicuri che il governo, il precedente e l'attuale abbiano già una roadmap, una tabella di marcia per gestire le procedure di messa in sicurezza e di eventuale ristoro? Oppure è stato solo fatto filtrare quella che era un'ipotesi di lavoro o più ipotesi di lavoro? Allora, questa cosa mi inquieta non poco. Io spero che il governo Gentiloni e il ministro Padoan agiscano e diano indicazioni inequivoche nel più rapido termine possibile, il che vuol dire o alla chiusura del mercato di stasera o alla chiusura del mercato di domani o durante questo fine settimana, esatto. Non fosse altro che per il primo step, almeno quello della fornitura di liquidità, perché qui stiamo continuando a rischiare l'osso del collo e Dio non voglia scoprire che il governo non ha nessuna roadmap e nessun piano B per gestire il burden sharing, perché sarebbe agghiacciante. Dove per gestirlo, cari ascoltatori, il problema è aver fatto una trattativa sui punti concreti con le due autorità, perché in questo caso non c'è solo la vigilanza europea in campo, ma ci sono anche i poteri della Commissione in campo per via degli aiuti di Stato. Ecco, avendo avuto 7 mesi in cui ho deciso di non farlo, la speranza che sottoscrivo di Mario Seminerio è che Padoan, che è il vero, insomma, tratto di unità, perché Gentiloni non si occupava di questo, questa trattativa ce l'abbia ben risolta già sul tavolo, altrimenti più si ritarda, più la fuga dei depositi a Siena, magari non solo a Siena, visto che sono parecchie le banche, ve l'ho citata all'inizio, quelle interessate da possibili interventi analoghi nei prossimi mesi, diventa un problema sistemico, per essere chiari. Sentiamo ancora un altro ascoltatore, Giovanni, che ci chiama da Genova. Prego Giovanni. Sì, io volevo dire che mi sembra che qua siamo sempre fermi al punto, finalmente abbiamo una banca, dei famosi furbetti del quartierino. Ecco, io quello che voglio chiedere, siamo proprio sicuri che provare a farne fallire una non serva a educare tutte le altre? Questo è un tema che Genio sollevava anni fa. Io nel 2012 non solo l'ho scritto, ma come ho anche raccontato, insieme ad altri più autorevoli di me, sono andato dal Presidente del Consiglio Monti a parlare di MPS e a parlare esattamente dell'intervento che ho descritto prima. Era un intervento che azzerava gli azionisti e su quello ci fu il no delle più alte autorità italiane. E oltre non voglio andare, perché mi è stato più volte detto che è meglio non parlare, quando dico alte dico altissime, sia politiche che regolatori. Mario Seminerio, che dice? Ma io, allora, far fallire una banca, e intanto le banche non falliscono, vanno in liquidazione coatta amministrativa, esatto. Poi bisogna vedere, sempre un problema di costi e benefici. Io ribadisco, se una persona è affidata di una banca, cioè se è debitore di una banca, un processo di fallimento eccetera implica il rientro a vista. Allora forse si potrebbe gestire il trasferimento dei debitori su altre aziende di credito, però sono cose che devono essere studiate a tavolino con grande cura. E poi credo che non siano ancora maturi i tempi per dire il brand, il marchio di una banca, soprattutto di questa, ma non solo di questa, non deve sparire. E allora questo è tutto un altro discorso. Io, Oscar, continuo a restare dell'idea che sia molto più facile fare fallire all'Italia che una banca. Questo sono d'accordo. No, ma questo hai ragione, questo è un fatto, non è un'opinione. Io mi limito a dire che nel 2012 ci saremmo risparmiate tante conseguenze anche sistemiche, perché ripeto, noi abbiamo costruito un sistema mutualistico per cui abbiamo fatto pagare il costo di tutte queste vicende, la cui soluzione è stata rinviata, alle banche sane del nostro paese, a cui abbiamo chiesto di finanziare col fondo di tutela dei depositi stravolto interventi che non sono bastati, vedete le quattro banche, abbiamo annullato nel loro valutazione sul mercato il premio al minor rischio che avevano, sto parlando soprattutto di Banca Intesa per essere chiari. Ecco, e se dovessimo adottare, ma ne parleremo domani, il criterio di copertura al 75% dei crediti deteriorati che ha appena annunciato Mustier e Unicredit, ci sarebbe da ridere per quante decine di miliardi purtroppo in più sono necessari all'interno del sistema bancario italiano. Intanto ringrazio Mario Seminario, vedremo il decreto se c'è stasera o domani mattina, ne riparleremo anche domani. Continuate con la 24, appuntamento con Alessandro Mina domani mattina alle 8:20 su Attenti a noi due.